Achtung, lieb Frau Milch im Porsche, um paar Vorsprung durch Technik. Donner und Blitzen, britischer Architekt, tomorrow belongs to me. Schweinhund, Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist Kap. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Mighty FM. Chi vi parla, come sempre, da Radio Kairos per Mighty FM è Claudia Mighty Mau. Ed oggi siamo di nuovo, finalmente, dopo aver fatto diverse puntate sul Primavera Sound Festival, a fare una dei nostri pipponi monografici. In questo caso anche particolarmente impegnativo, perché si tratta di un personaggio poco complicato, dal nome US Girls, in realtà progetto prima diciamo solitario di Meg Remy, ma ne parleremo nella prossima ora e mezza. E adesso partiamo col primo pezzo di apertura. Si tratta di Velvet for Sale e l'album è In a Poem Unlimited. US Girls. Velvet for Sale, US Girls, ci parliamo sopra perché tanto speriamo che poi la gente si vada ad ascoltare il disco in santa pace. Questo è stato il secondo video singolo diffuso a novembre, mentre l'album ufficialmente è uscito il 16 febbraio di quest'anno. Invece novembre 17, secondo pezzo, è stata questa Velvet for Sale, che parla di vendetta nei confronti degli uomini che ti hanno picchiato, che ti hanno stuprato. Un'amica che consiglia ad un'amica: procurati una pistola chiamata Velvet e incutigli la paura, non dargli nessun motivo di farti aggredire, ma incutigli la paura, come le donne sono insomma abituate a temere l'esplosione di un uomo violento o di qualsiasi uomo potenzialmente per la strada. Ed anche il video è sottolineato appunto da una bella storia in cui lei, Meg, fa una poliziotta chiamata per un episodio di violenza domestica. Ovviamente il marito nega, anzi fa vedere il suo distintivo, perché anche lui è un esponente delle forze dell'ordine. Come spesso succede, lei vorrebbe, la poliziotta, vendicarsi da sé, ma poi quest'uomo per conto suo si suicida per il senso di colpa. Ma succede veramente raramente. Ma dicevamo, il progetto di Meg Remy nasce ormai nel 2007-2008, lei è nata nell'Illinois, è cresciuta a Chicago, è dell'85, quindi ha 33 anni, forse è nata a Kankakee, perché era il primo 7 pollici, si chiamava Kankakee Memories e questo è un paesino dell'Illinois, ma comunque lei dice praticamente il giorno dopo che ho finito la scuola superiore me ne sono andata a Portland per fare il college di belle arti, per studiare grafica e paper arts, infatti lei fa molti bellissimi collage con la carta. Quindi primi esperimenti musicali nel 2007 e questo nome US Girls, che era un paradosso perché poi dopo uno vedeva che era un progetto appunto individuale e anche molto solitario, era una battuta fatta tra amiche perché doveva arrivare una band europea a suonare a Portland e loro sono dette ah sì, aspetta che vedano queste US Girls, e quindi è rimasto questo nome. Ma lei già da adolescente suonava in un gruppo punk. Dichiara di aver subito grandissima influenza delle Riot Girl e dei Crass e quindi fa delle prime registrazioni casalinghe. Infatti stiamo ascoltando due pezzi, appunto erano praticamente dei bozzetti molto strumentali, soprattutto strumentali e molto sperimentali. Questo che stiamo ascoltando è Always E da Introducing US Girls del 2008 e poi seguito da 911 Song da Gravel Days, sempre dello stesso anno. Questo appunto erano i primi esperimenti musicali di US Girls, ma siamo arrivati ad un altro pezzo molto molto importante in questo album che si chiama In a Poem Unlimited, ovvero si chiamerebbe, cioè graficamente c'è scritto US Girls In a Poem Unlimited, ma viene appunto venduto come In a Poem Unlimited, e questo pezzo molto bello, molto importante, si chiama Rage of Plastics. Riguardo al pezzo di prima, che era come un'incitazione alla violenza, a ribellarsi da parte delle donne, lei dice: gli uomini sono fortunati, le donne e i bambini devono ancora prendere le armi, e sebbene io spero che questo non accada mai e sono completamente in disaccordo con la violenza, che la violenza sia efficace. Questa idea della vendetta da parte delle donne era matura per farci una canzone, mentre questa seconda canzone, Rage for Plastics, questa ballata rock and blues, in realtà è una cover. Infatti adesso c'è un piccolo intermezzo della versione originale di una cantautrice canadese folk, Simone Schmidt, che suona con il nome di Fiver, e infatti come Fiver compare questa canzone nel suo album del 2013, che adesso arriverà. I've tried to be patient. In questo caso veramente un blues contenuto in Lost the Plot del 2013. E c'è anche un'altra cover in questo disco, ma in entrambi i casi Meg e la band di cui si è dotata, molto molto importante per fare questo disco, un collettivo di artisti più o meno underground di Toronto che si chiama The Cosmic Range, l'ha velocizzata tantissimo facendo appunto una versione proprio frenetica per esprimere proprio l'inquietudine e l'agitazione e anche la violenza di questo disco, che parla generalmente degli abusi subiti dalle donne e quindi poi in larga scala all'abuso sociopolitico del potere, gli uomini di potere, ma non solo, è anche dell'abuso degli uomini sulle risorse naturali, sulla terra, specialmente in questa canzone dove c'è una donna che racconta: quando ero giovane a 24 anni ballavo sul dance floor nella epoca ruggente del poliestere, invece adesso mi sono sposata, mi sono adattata ad un lavoro giù alla raffineria che mi ha reso sterile. Mio marito sognava una femmina, io sognavo un maschio, adesso cullo il mio uomo dalla faccia come la luna, come se fosse un bambino. Però le case giù vicino allo stabilimento costano, la terra costa molto molto poco, appunto per l'inquinamento. Alla fine fare questa vita è quasi come morire. E allora, se prima era un paradosso che US Girls fosse solo una ragazza americana, adesso che Megan Remy si è appunto circondata da questo collettivo molto numeroso, e ricordiamo, siamo qui soprattutto perché dopodomani la vedremo dal vivo sul palco del Locomotive, va in giro appunto con una live band di 8 elementi, adesso che appunto sarebbe una vera e propria band plurale, non è più americana, perché ormai Meg è diventata dal 2010 ufficialmente canadese, vive a Toronto, e questo in seguito anche all'incontro, al matrimonio con Maximilian Max Turnbull, in arte Slim Twig, appunto anche lui musicista, anche lui membro di questa grande band The Cosmic Range. Ha pubblicato diversi album e gli ultimi due con la DFA Records, e stiamo ascoltando appunto uno dei pezzi dell'ultimo album a suo nome del 2015. Si tratta di Thank You for Sticking with Twig, e questo pezzo si chiama Fog of Sex, tra parentesi NSIS. E ovviamente la presenza di Meg, della sua voce, è molto vasta, ampia in questo album, come la presenza di Max nei dischi di US Girls. Yeah. Quindi il progetto US Girls è progressivamente cresciuto dagli esperimenti nella cameretta da sola al coinvolgimento progressivo, proprio esponenziale, di sempre più collaboratori, anche grazie a questa famiglia di elezione che è musicale, artistica e personale, che ha trovato in Canada. E lei dice il fatto di aver messo un confine tra sé e il suo stato d'appartenenza, che ricorda comunque un passato di abusi, un passato doloroso, le ha dato appunto anche la forza di essere più lucida e più spietatamente critica, perché si sente di farlo in un posto dove si sente sicura. Ovviamente quest'album In a Poem Unlimited capita proprio a fagiolo, nel momento in cui il dibattito politico collettivo pubblico è stato scosso dagli eventi di Harvey Weinstein, tutto lo scoperchiamento del vaso di Pandora, che io ho più definito un segreto di Pulcinella, e quasi sembra appunto, come abbiamo scritto, un lavoro ruffiano, no? Per quasi cavalcare l'onda del movimento Me Too and Time's Up. Ma ovviamente è certo che un artista non può avere un disco bello e pronto, scodellato, prodotto nel giro di un mese, e quindi lei ovviamente dice è tutto importante, le voci bisogna parlare, le informazioni devono circolare, questo movimento è assolutamente importante, ma io parlo da sempre nella mia musica di queste questioni. Quindi vabbè, fa piacere che adesso insomma anche l'atmosfera politica circostante sia più ricettiva e quindi magari più persone siano disposte all'ascolto, alla comprensione. Però appunto questa è una cosa, sono cose di cui io ho parlato sempre. E finisce il pezzo di Slim Twig e andiamo avanti per parlare appunto come è progredita la carriera, sempre molto molto underground, fino a pochissimi anni fa, di Megan Remy. E siamo arrivati ad un album, secondo vero e proprio album del 2010, si chiama Go Grey. Cominciano anche ad apparire parole più intellegibili, le canzoni sono più canzoni, più o meno sempre un po' sperimentali, ma più dalla struttura più classica. E da Go Grey ascoltiamo Red Ford Radio. Quindi dopo le prime pubblicazioni su etichette molto piccole come la Chocolate Monk e poi la Steel Breeze di Philadelphia, come quest'album 2010, nel 2010 appunto si trasferisce a Toronto dopo il matrimonio con Max Turnbull, e per diciamo metterci in sintonia con il terzo pezzo dell'album In a Poem Unlimited, e visto che Red Ford Radio era abbastanza così scheletrico e un po' oscuro, abbiamo voluto anticipare il contenuto della prossima canzone di In a Poem Unlimited, perché praticamente il protagonista è lo stesso, cioè nella canzone di US Girls la protagonista è lei, l'oggetto della sua rabbia è il presidente Obama. E quindi come non ricordare l'omonimo pezzo di Anony? Now the news is you spying, executing without trial, betraying virtues, scarring close the sky. E quindi Anony in bellissimo Hopelessness. Ha espresso una critica molto severa alla presidenza di Obama e non sono stati molti a farlo. E quindi in questo lo accomuno appunto a Meg Graham e US Girls. E questo è il pezzo che ascolteremo dopo, si chiama Mad as Hell, cioè arrabbiatissima, infuriata proprio. E quello è stato il biglietto da visita ad ottobre, quando è stato annunciato quindi l'uscita di In a Poem Unlimited. E i video a corredo delle sue canzoni sono sempre molto belle, soprattutto sono delle produzioni, soprattutto quelli vecchi, molto DIY, fatti da lei, molte volte diretti da lei o da sua cognata, da suo cognato, i fratelli, la sorella, il fratello e la sorella di suo marito. E nel video di Mad as Hell lei è tutto in bianco e nero, potrebbe essere una canzonissima degli anni 70 dove c'è lei e quattro coriste, che è sempre lei però con dei capelli, un vestito diverso, che fa tutti questi balletti anche corredati da dito medio in direzione appunto di Obama, dicendo cioè io ti volevo credere tantissimo, cioè veramente conquistati tutti con il tuo sorriso. E poi abbiamo visto che insomma dopo in 8 anni ti sei ingrigito i capelli, perché sai il potere, no? che invecchia gli uomini. E poi però non ti sei fatto nessun problema a bombardare con i droni o a origliare, a tenere sotto controllo la popolazione americana. E quindi un altro collegamento con la meravigliosa John Bombay, sempre dello stesso disco di Anony. E il mood musicale adesso cambia completamente, perché il pregio di questo album di US Girls è unire testi molto pesanti con dei ritmi trascinanti, in questo caso molto Madonna primi anni 80 nella voce, e musicalmente Blondie e ABBA, Mad as Hell. Yeah. E come dice una delle recensioni che leggeremo dopo, a volte le cattive notizie, quando sono impacchettate insomma con una bella musica danzereccia, ha anche una soddisfazione, no? E in questo caso sta mandando a quel paese Obama ballando come Yabba, molto catartico e liberatorio. Piccolo particolare, all'inizio quando è stato diffuso questo pezzo appunto ad ottobre era Mad as Hell e noi la suonammo anche nelle nostre playlist settimanale di Mighty FM, invece poi ufficialmente nel disco viene fuori solo con le iniziali puntate, quindi M-A-H, che in italiano viene anche bene, ma... vabbè, insomma, questa lo so che è molto telefonata, ma corre da sempre, innanzitutto perché è importante anche riconoscere le origini musicali, le ispirazioni, la storia della musica e quello che comunque a distanza di 30 anni, anzi cosa sto dicendo? 40 anni, 78, Parallel Lines, Blondie, rimane e viene ancora citato, ripetuto, rielaborato. E poi perché è sempre piacevole per Mighty FM suonare cose che non abbiamo mai suonato, non abbiamo mai coperto. Ovviamente sentita, risentita, la sappiamo tutta a memoria, ma è sempre piacevole e quindi ce la teniamo in sottofondo sempre per parlare di questa artista veramente particolare, dalla voce molto particolare, Meg Remy. E anche dalla metrica particolare nelle sue canzoni, e anche dalla pronuncia particolare nelle sue canzoni. Per esempio, Mad as Hell dice if you could in tell, invece di couldn't tell, dice could in tell. Mai sentito prima. E dopo i primi esperimenti, appunto, non con un registratore a quattro piste ed un microfono in cameretta, comunque dopo l'università torna a Chicago. Tra l'altro, una curiosità, nel primo album Introducing US Girls c'è una cover di Springsteen che lei adora, ma sfido i più grandi fan a riconoscerla, dovrei chiederlo alla nostra Flavia. E quindi all'inizio sempre pezzi molto brevi, noise elettronici, con voce piena di effetti e parole o assenti o quasi incomprensibili. Poi Go Grey nel 2010 per la Steve Breeze, che abbiamo detto un'etichetta specializzata in noise experimental e, lo dice Discogs, tra virgolette, strange effects. E poi l'incontro con Slim Twig, che è, appunto, essendo secco, come si chiama? Rametto sottile, rametto secco, Slim Twig. Trasferimento a Toronto, fondano anche insieme l'etichetta, la Calico Corp, ancora attiva. E l'abbiamo anche già visto sul palco con lei e un'altra corista, al Primavera Porto del 2016, ho fatto un concerto veramente molto corto. Poi con Slim Twig ha anche fatto uno split album per la Palmist, una sublabel della Fat Cat, che poi appunto sarà la sua etichetta successiva, perché nel 2012 uscirà il terzo album Jam. Però in mezzo, nel 2011, esce invece un album EP ufficiale, non ufficiale, che si chiama US Girls on Crack, perché la Crack Records è un'etichetta belga fiamminga e contiene il primo pezzo che io ho mai sentito di US Girls. Ho detto vabbè, questa è matta, e lo capirete anche voi perché questo. Yeah. Ebbene sì, The Boy Is Mine, successo del 98 di Brandy e Monica, fatto in questo modo così sghembo, possiamo dirlo ancora, e che mi ha fatto capire appunto quanto Vega Rebi fosse oltra. Oltra, meaning, una cosa che viene da Mondo Oltro, un blog cui mi parlava Olivia, per cui definire qualcuno oltro o oltra significa veramente sopra le righe. E col passare del tempo appunto cominciano ad aggiungersi dei collaboratori che ci sono ancora, che affiancano ancora Meg Remy anche in questo ultimo lavoro, come per esempio Tony Price, soprattutto Louis Percival, che produce con lo pseudonimo di Ona Kabazian. Infatti questo ultimo album, In a Poem Unlimited, è un lavoro collaborativo. Infatti in alcuni casi lei proprio non ha neanche contribuito alla musica. E c'è sempre stato appunto questo amore per le cover, anche appunto molto stravolte, molto strambe come questa, The Boy Is Mine. E poi succede anche che nell'ambito della musica esterna, i cosiddetti contributi esterni alla trasmissione, io ci metto anche delle cose che magari possono non entrarci niente, però è roba nuova, è roba fresca, e lei l'ho messa sotto la categoria giovani strambe. Anche lei si tratta di, molto giovane, si tratta di Caroline Rose, ha pubblicato un album Loner a marzo, che ha ottenuto un 7.6 da Pitchfork, quindi insomma... Anzi, il secondo album. E ho voluto mettere questa canzone perché appunto ha sempre questo suono un po' sì, pop retro, insomma. E perché il contenuto delle sue canzoni sono sempre molto sagaci e anche molto ironici e umoristici. E infatti anche il titolo di questo pezzo è Janine Becomes a Mom. Thank you. siamo sempre su Maite FM, stiamo parlando di US Girls, il prodotto, il sì, progetto prima singolare e poi adesso assolutamente plurale di Megan Remy, americana, adesso naturalizzata canadese, vive a Toronto, si è fatta aiutare da questo collettivo da più di 20 musicisti, tra i più virtuosi e nella gran parte anche sottovalutati della scena alternativa di Toronto, anche formando, ne parleremo dopo, anche super gruppi, lo stesso The Cosmic Range, questo collettivo molto ampio, è formato ovviamente da membri che hanno loro altre band e altri progetti, ma poi appunto nell'ambito di questa frequentazione, proprio di questa comunità di cui si è circondata, insomma, di cui fa parte Megan Remy a Toronto, si sono anche formati degli altri gruppi, cioè il gruppo del marito con la ragazza con cui suonava quando era giovane, che si conoscevano tipo dalle medie, insieme ad un altro duo di cui una canta nel disco di Megan Remy, e lei alla fine hanno fatto un altro gruppo ancora e un altro disco ancora, ma lo ascolteremo più tardi. Adesso finiamo di ascoltare Caroline Rose, secondo disco di questa giovane newyorkese, l'album si chiama Loner, e poi ci abbiamo voluto attaccare un altro pezzo che in realtà è solo uno sketch molto breve e ci sta perché è una denuncia contro appunto tutti i maschi che incontri per la strada, che si sentono in diritto di apostrofarti, di rivolgerti la parola e di dirti: ma sorridi, ma fai un sorriso, dai, fammi un sorriso. È per questo che ascoltiamo Smile, a.k.a. Schizzo Drift, Jam One, a.k.a. Bikini Intro, perché il pezzo dopo si chiamerebbe Bikini, ma noi invece ci ascoltiamo solo questa. Smile! Questo è un intermezzo di 30 secondi, così, dove lei con voce roca e rumori sottofondo dice: perché perdo la voce mi va via quando ho qualcosa da dire, e appunto c'è una didascalia appunto del ruolo dato alla donna e anche della propria impotenza, del fatto di non darsi il permesso di parlare, di potersi esprimere, quando ho qualcosa da dire la voce mi sparisce. Questo è un intermezzo di 30 secondi che è prima di un altro bellissimo pezzo, di quelli insomma più nominati, più belli, e cui è uscito anche l'ultimo video prima dell'uscita del disco, il 6 febbraio, si tratta di Rosebud. Insomma, la caratteristica di questo album è unire queste melodie retro, infatti il collettivo Cosmic Range, jazz cosmico, funk, poi la disco. Un disco così senza tempo. Tipo, ci sono alcuni pezzi delle canzoni che non sono esattamente il mio genere, ma questo concetto, questa unione di musica euforica, musica pop, semplicemente pop, che può essere molto molto potente con i contenuti giusti, unita appunto alla sua voce, a questi arrangiamenti eccetera, mi fanno molto molto piacere questo disco. Parlando appunto dell'affiancare musica così soft, così sussurrata, eccetera, con questioni insomma pesanti. Questo Rosebud chiaramente è un riferimento a Citizen Kane, ovvero Quarto Potere, cioè qual è l'origine, il tuo malessere, o qual è la cosa che ti può riassumere e definire. Quindi è un invito a scavare la psiche per trovare la radice ai propri problemi emotivi. E quindi nel caso di Hurst era, alla fine si capisce, la slitta che lui aveva da bambino. E invece trovare la propria Rosebud, che se non lo fai tu, dice, non lo farà nessuno al posto tuo, ripete in modo molto suadente, farà male, te l'assicuro, farà male, te lo prometto. Nel video in questione ci sono tanti uccellini colorati in voliere in un posto pieno di gabbie, di uccellini in gabbia, in una casa, una baita di legno piena di comfort, sepolta dalla neve, dove c'è appunto Slim Twig, Max Turnbull, protagonista di questo video, che a un certo punto, non so, si annoia, prende un uccellino, se lo mette nella giacca, corre nel bosco in mezzo alla neve e lo libera. E tornando alle cose che magari non c'entrano niente, però secondo me sì, e appunto per mettere cose nuove, cose appunto appena uscite e mai sentite prima, ho deciso di mettere in scaletta questo pezzo. Perché? Perché è super retro anche questo. Sembra un pezzo che poteva aver fatto Dinosaur L, ovvero Arthur Russell, quando faceva i pezzi disco alla fine degli anni 70, primi 80, come Go Bang. Poi ci serve sempre anche per parlarci sopra. Ma chi è, direte voi? A.L, ovvero Against All Logic, contro ogni logica. L'album si chiama 2012-2017 in quanto è una raccolta di pezzi composti in questi anni. Il pezzo che stiamo ascoltando, editato ovviamente, si chiama Hopeless, e il suo autore è niente po' di meno che, per chi non lo sapesse, Nicholas Jaar. Quindi Nicolino Jaar, come lo chiama Marcella, ha assunto questo pseudonimo, magari probabilmente solo per questa uscita. Ci sono tanti artisti che danno nomi diversi, si danno nomi diversi per musiche diverse. Ricordiamo l'esempio veramente estremo e schizofrenico di Richie Hawtin, che non so, avrà 10 di pseudonimi con cui ha pubblicato, se non di più. Ma dicevamo, questo album In Appointment Limited di US Girls ha veramente ottenuto un plauso totale, unanime praticamente, e lei ha avuto, sta godendo di un'attenzione da parte della stampa mai avuto prima. Ovviamente le fa piacere, ovviamente dice sì, vabbè, io da mo che sto facendo la mia cosa e avrei continuato a farla anche se non avessi avuto nessun riconoscimento ancora. E io mi sono letta un po' di interviste, un po' di articoli, e appunto a riprova dell'attenzione anche dei media importanti c'è un bellissimo articolo molto molto approfondito, scritto evidentemente da un fan, sul New Yorker, dove l'autore descrive i pezzi del primo singolo, quello proprio del 2007, come melodie brillanti e luminose, però inondate di rumore abrasivo, come ascoltare delle oldies, ovvero le vecchie melodie anni 50 e 60, spalando ghiaia. E poi parla del suo passaggio attraverso i generi, dove le canzoni sono come dei costumi o dei mascheramenti, persone o personaggi, dal noise ai girl groups degli anni 60, al country and western scintillante e a traballanti e tremolanti cover R&B anni 90, quindi appunto The Boy Is Mine. Ma adesso siamo arrivate all'album del 2012 che abbiamo citato prima. Si tratta di Gem, scritto in maiuscolo oppure no, pubblicato dalla Fat Cat Records. Anche da questo album sono stati fatti diversi video, sempre molto DIY, e ci ascoltiamo un collage, anche questo, dei due pezzi che ci sono piaciuti di più, ovvero il primo, Work From Home. Consiglio veramente di vedere il video, seguito poi da Jack. Se questo inizio così sembrano quasi gli Stranglers o i Doors o tantissima roba, comunque anni 60-70. McGray mi ha attraversato tanti generi, da un synth pop più freddo, appunto, però ho sempre avuto questa attrazione per la musica dei tempi andati, perché poi comunque anche il suo lavoro a livello di testi è un'analisi approfondita, una dissezione della, e lo leggerò credo in qualche intervista nei miei appunti, del ventre oscuro dell'America. E quindi un riferimento ad antiche tradizioni musicali, ma anche appunto politicamente negative, o sappiamo benissimo anzi com'è la vita anche nelle grandi città, San Francisco, Los Angeles, New York, non so, Chicago magari. Però se vai nel Midwest e per esempio ancora adesso sei tipo omosessuale o trans, magari rischi ancora la vita. Infatti i pezzi anche di questo Gem sono molto classici, anche se sono sempre voci con effetti, con filtri, rumori vari intorno. E tornando a quell'articolo del New Yorker, poi ovviamente si fa riferimento al disco che l'ha fatta conoscere, e quello che infatti anche noi abbiamo conosciuto molto meglio, ovvero del 2015, Half Free, il primo per 4AD, come questo ultimo In a Poem Unlimited, un disco che era influenzato dalla disco e che conteneva ritratti di donne che cercano di andare oltre l'orizzonte che sono state condizionate ad accettare, quindi appunto questi temi sempre presenti, insomma, la condizione della donna, le sue limitazioni, le sue delusioni, la sua rabbia, sempre presente nei lavori di Meg Remy. Mentre in A Poem Unlimited la disco diva immagina la trascendenza non nella propria camera o sulla pista da ballo, ma attraverso appunto la ribellione politica. Appunto, anche per variare, per mettere musica noi sconosciuta finora, parlando di questo collettivo con cui Meg Remy ha fatto il disco e o altre band, insomma gente di cui si circonda, stiamo ascoltando le Ice Cream. Un duo formato da Amanda Christ, non so, non essendoci la H, non so se si pronuncerà anche questo Christ, Amanda Christ e Carlin Basic. Non so se sia lei la corista che l'accompagna sempre, che abbiamo già visto a Porto, ma sicuramente è una delle voci che l'accompagnano in questo tour. Ricordiamo, venerdì 11 maggio al Locomotive per Murato Live, direbbe Gandolfi. Unica data in Italia. Stiamo ascoltando appunto un pezzo dal disco di debutto di questo duo, si tratta di Love Ice Cream, Love virgola Ice Cream del 2016, questo pezzo è Dress Me Up. L'articolo New Yorker continua dicendo: nella nostra società l'arte fatta da donne o persone di colore viene considerata rilevante solo se è introspettiva, proprio come riflessione sulla propria marginalità. Ma l'opera di Meg Remy, invece, che tanto ricorda quella visiva di Cindy Sherman, aspira a libertà e universalità, quella concessa a artisti come Dylan, Lou Reed o il suo eroe Springsteen. E torniamo ad un altro pezzo importante. Sono tutti importanti in realtà, forse tranne uno, quello che mi piace di meno. Si tratta di Incidental Boogie. E qui si sente un po' l'effetto cosmic del tra disco e psichedelia. Si tratta di un pezzo comunque già precedentemente pubblicato in un EP del 2013 che ha segnato quasi il passaggio dal suono del passato e a quello del presente. Era un EP del 2013 che si chiamava Free Advice Column. Oh, la storia. Sono stata lasciata dal mio uomo, per una volta sono riuscita a dormire profondamente, ma ti devo dire qualcosa, padre, che tu non vuoi sentire, perché il mio nuovo uomo, beh, non è tanto male, ma fammi spiegare perché. Faccio quello che voglio, quello che mi piace, ho lasciato, e adesso questo qui è il pezzo originale di questo pezzo qua. Però sai, la vita non ha senso senza se non vieni picchiata, capisci? La vita era un po' troppo tranquilla, senza nessuno che mi urlava contro. E quindi mi sono trovato un vero uomo che non mi colpisce tanto forte, così posso ancora andare a lavorare. Mi colpisce a destra, mi colpisce a sinistra, tutto il tempo, ma non lascia segni, non lascia segni, quindi nessuna prova che qualcuno possa vedere. Essere brutalizzata significa che non devi pensare. E la vita è facile quando c'è solo il dolore con cui competere. Ho letto che c'è chi preferisce questa versione di Voice Column. Io sinceramente preferisco quella di In a Poem Unlimited, dal tocco appunto psichedelico, e quindi riascoltatevelo con calma ad un volume bello sostenuto. E dicevamo come da questa comunità di musicisti, gruppi, e quindi un altro side project è nato appunto da Tropics, ovvero Max Turnbull e Simone TB McGrammy, e le Ice Cream, quindi questo quintetto rock and roll. Si sono dati il nome di Darlin Shrug e hanno fatto un disco omonimo uscito a novembre dell'anno scorso. All'inizio l'idea era che Meg scrivesse i testi e forse appunto Slim cantasse, perché canta in diversi pezzi, poi alla fine insomma li canta quasi tutti lei e va in concerto lei. E questo è solo appunto per dovere di citazione, uno dei pezzi più brevi, però abbastanza insomma sufficiente per capire il genere. Si tratta di Technicolor Surround. A volte i pezzi di questo disco io me li immagino pronto, proprio suonati da questa band in qualche proprio localaccio tutto fumoso, la gente gioca con quei classici postacci che si vedono sui film americani dove si beve la Bud, si gioca a biliardo. E siamo arrivati a questo pezzo, appunto l'album si chiama L-Over, ovvero Lover, ma anche Love Over. Ed è questo che insomma quello che mi piace un pochino di meno. Magic una storia proprio di insoddisfazione, di frustrazione, di una storia, un rapporto con una persona a cui non riesci proprio a tirar fuori niente. Dice il mio amante, il mio lover, non ha cuore. Dice, riesce a immaginare, cercare di avere, di tirar fuori un po' di soddisfazione da una pietra? Quindi, se non l'avete ancora capito, quest'album In a Poem Unlimited contiene canzoni che sognano di protesta, di rabbia, vendetta e redenzione, e che partono dal semplice auto di autodeterminazione, il momento in cui i vari personaggi raddrizzano la schiena e trovano la loro voce e reclamano la propria autostima. Sempre l'articolo di New Yorker, non l'ho scritto io. Ma anche rassegnazione, riflessione amara su una vita sprecata e un lavoro che ha distrutto la tua salute rendendoti sterile, appunto, come in Rage of Plastics. Adesso passiamo a una canzone molto più allegra e positiva, e una canzoncina proprio molto gradevole. Si tratta di Fool e la canta Beja Bulat, anche lei di Toronto. E anche lei collaboratrice, tastierista, vocalist in A Poem Unlimited, e ho letto che insomma un po' un'eccezione rispetto agli altri musicisti che insomma sono molto underground. Invece lei insomma abbastanza affermata in Canada, ha avuto anche una nomination ai Juno Awards, che credo siano l'equivalente del Grammy canadese. Insomma, poi ho letto che ha connections, non capisco di quale tipo, con Arcade Fire, fa i dischi con la Rough Trade. E infatti stiamo ascoltando il disco del 2016 che si chiama Good Advice, e che richiama appunto molto i girl groups degli anni 60, questi suoni a cui anche Meg ha voluto dedicare un l'EP Free Advice Column. In realtà appunto era un omaggio al girls group degli anni 60, e quindi praticamente la lingua franca alla radice, alla base delle canzoni di Megan Remy, e quindi anche una lingua con cui possono comunicare tra loro Beja, Bulat e Meg. Adesso arriviamo anche a un'altra punta di diamante di questo album, un pezzo uscito a gennaio, sempre prima dell'uscita dell'album. Si tratta di Pearly Gates. Devo ringraziare Ana che me l'ha inculcato nella testa. Questo è il pezzo successivo, appunto anche uno dei suoi preferiti, e che fa veramente ballare. Ma anche questa è una storia, appunto, un po' amara. L'aneddoto di questa donna che arriva alle porte del paradiso, incontra San Pietro, riesce a capire che l'aria che tira non è molto buona, vedendo insomma anche altre donne. E allora cosa fa? Capisce che anche in paradiso, per poter entrare in paradiso, la devi dare via. E infatti San Pietro è più che abituato, è più che contento di esercitare questo ricatto nei confronti delle donne, facendo anche il bullo, dicendo: non ti preoccupare, sono bravo a tirarlo fuori in tempo. E infatti anche il commento che ha fatto Ana dice: c'è molta poca speranza per le donne se anche il paradiso è governato e controllato da maschi. Sente anche dello scratch, perché anche l'idea anche della produzione musicale di Cosmic Range era che il disco suonasse come quei campionamenti di classici vecchi jazz e funk che i rapper hanno usato nei loro pezzi, in modo che il risultato fossero appunto dei pezzi senza tempo, delle oldies, proprio quelli che hanno ispirato i rapper che poi hanno usato i campionamenti. Insomma, è tutto un circolo virtuoso. E il ritornello dice: insomma, cosa vuoi fare? Alla fine sei figlia di un uomo, sei solo la figlia di un uomo, e quindi hai ragione di essere solo in quanto figlia di uomo. E siccome il pezzo dice featuring James Bailey, noi siamo andati a cercare James Bailey. No, no, no, no. e quindi abbiamo scoperto che James Bailey è un musicista di Toronto che ha cominciato più o meno nel 2014, ha pubblicato un EP Listen nel 2015 più altri singoli, poi un altro EP del 2017 Roads, da cui stiamo ascoltando Catcher, e poi un ultimissimo EP appena uscito quest'anno che si chiama In and Out, tutto disponibile sulla sua pagina SoundCloud. Poi un altro articolo interessante, un'intervista che ho letto molto interessante pubblicata da Stereogam, e appunto la giornalista chiede che effetto le fa questa attenzione e consenso unanime nei confronti dell'ultimo disco, e lei appunto dice che è contento ma sarebbe andata avanti comunque, e si considera fortunata che le stia accadendo solo questo successo così da grande quando ha già le sue abitudini e i suoi ritmi, e dice: non voglio impormi all'ascolto della gente, non vorrei mai costringere qualcuno a consumarmi, non sono un prodotto, sono solo una persona. Ma d'altro canto lei sa il fatto suo e non è sorpresa che il disco sia piaciuto, perché dice: è davvero bello, it's really good, dà una bella sensazione, ha un bel suono, la gente può immedesimarsi, e il merito è anche dell'accessibilità musicale, e io dico, vabbè, pur restando comunque strano un po' sopra le righe, ma in senso buono. Nelle interviste promozionali, Megan Remy, appunto, riporta la giornalista, ha detto che ha usato il pop come un cavallo di Troia, un contenitore diretto e divertente per storie di sessismo e violenza sulle donne. Mary Zella, Abba più Blondi, e poi l'ha detto: I think dance was the thing. E quindi la collaborazione musicale con il jazz funk The Cosmic Range è nata dal desiderio di dare alla gente qualcosa che la facesse muovere, perché tutto è così pesante che siamo disconnessi dal nostro corpo. Inoltre il cervello opera meglio quando il corpo è attivo. Ed arriviamo al pezzo immediatamente successivo, ovviamente, a Pearly Gates, Poem. Nessuno deve fare profitto, nessuno ha bisogno di venire pagato. Se tutti ci mettiamo d'accordo, non dobbiamo vivere in quel modo. quindi questo pezzo, insomma, è una critica antisistema, anticapitalista. Ho letto un'intervista del Guardian ai tempi dell'uscita di Alf Free che dice: mi piace fare l'opposto di tutto ciò che ti fa fare soldi. Sentendo e poi leggendo, vengono sempre fatti paragoni con altri stili, altri gruppi, altri generi, e in effetti soprattutto questa coda finale richiama tantissimo un'altra band americana di genere più sintetico, ma sempre pop. Si tratta dei Chromatics, chissà, diciamo il mio pezzo preferito che è in assoluto Lady. Tratta da Kill for Love, ormai del 2012. Bellissimo questo pezzo. E continuando appunto a leggere l'intervista di Stereogam, lei dice che in definitiva sta semplicemente ritornando a forme più elementari per catalogare dei modelli distruttivi che la società sta adesso a malapena cominciando a riconoscere. Quindi un disco che suona fuori dal tempo e sicuramente non indie in senso comune. Come ispirazione appunto l'hip hop, come appunto ho cercato di spiegare prima, questo rimando ai campionamenti dei classici jazz e funk che hanno ispirato il rap, quindi destrutturazione, un lavoro di collage della barra sulla storia del pop. E le dice: in questa epoca post whatever in cui viviamo e abbiamo accesso a tutto, dovremmo digerire, noi artisti dovremmo digerire questo tutto e buttare fuori il nostro unico e personale prodotto che viene filtrato dalla nostra personale esperienza e non semplicemente appropriarsi solo degli stilemi di un genere. Perché ormai è difficile creare qualcosa di nuovo. E quindi un'affermazione dell'importanza dell'artista come individuo. Poi appunto riferimento al hashtag MeToo, niente di nuovo per lei, sentimenti contrastanti, come se fosse un tipo di femminismo un po' semplificato e commercializzato per il grande pubblico, ovvero mainstream commodification of feminism. Ma comunque la speranza che il dibattito in atto evolva ad un altro livello, e dice: non è abbastanza, è molto di superficie, confezionato, packaged. Non voglio togliere merito a nessuno, le parole contano, ma serve anche l'azione. E ciò ci rimanda al video di Childish Gambino, che sia Olivia sia Anna mi hanno segnalato, This America, appunto una denuncia della violenza, delle armi, la brutalità della polizia e della cultura superficiale dell'evasione, della distrazione che ci fa distrarre dai problemi reali. This is America and this, ovvero no, questi sono i Chromatics, ma questa trasmissione è US Girls. Ho letto anche un articolo appunto sull'universo musicale dei musicisti di cui si è attorniata e che ha trovato appunto in Canada, essere in Canada, la resa fearless, impavida, senza paura, e quindi tutti i musicisti con cui ha collaborato, ma l'abbiamo già nominati tutti nel corso della trasmissione. Adesso arriviamo appunto ad un pezzo. Abbiamo già passato un altro per un best of di Pitchfork, Sororal Feeling del 2015, bellissimo. Questo è il pezzo conclusivo, stiamo parlando di Half Free, pezzo molto molto bello, si tratta di Woman's Work. Free è stato appunto il primo disco del 2015 per la 4AD, una musica un po' più calda, retro, con tocchi disco e anche un po' latini, tipo ritmi di congas per esempio in un altro pezzo bellissimo che è Window Shades, come un pezzo disco lento. C'erano ancora alcuni pezzi più synth pop sperimentali, ma diciamo che un album un po' incubatore di quello che è venuto dopo, perfezionato con In a Poem Unlimited. E non a caso quest'ultimo pezzo conclusivo, Woman's Work, è quasi quello che lo ricorda di più. E la particolarità di questo disco appunto che la accomuna come se fosse una Cindy Sherman però in canzoni, è che l'ha fatto tutti dei ritratti dell'Every Woman, diciamo storie comuni di donne. Per esempio Sororal Feeling parla di una donna che scopre che suo marito, prima di settle, di sistemarsi con lei, insomma di farsela andare bene, è stato con le sue, di lei, tre sorelle, prima di lei. Poi una moglie tradita, lasciata dal marito, una vedova di guerra che protesta contro il governo americano attuale, di guerre attuali, quindi magari le guerre di Bush, le guerre di Obama, che dice dov'è il mio uomo. E anche il video appunto è una scena di protesta di questa donna giovane che va nei luoghi del potere di Washington. E la fine di Sororal Feeling, appunto quello in cui la moglie scopre che il marito è stato con le sue tre sorelle, dice: e adesso I'm gonna hang myself on the family tree, cioè mi impicco all'albero genealogico. E poi anche una cosa interessante, che c'è questo siparietto comico, questa telefonata, infatti si chiama Telephone Play numero 1, in cui lei parla con una sua amica, che poi appunto è sua cognata. Dice: ho fatto un sogno strano, mio padre mi mandava delle foto di me da piccola che ero nuda. E allora cominciano a fare dei commenti su rapporto padre figlia. Ah no, ma sì, però anche il rapporto madre figlia. E poi dicono: sì, ma il rapporto padre figli è davvero il peggiore. E l'amica dice: sì, se tu eri un maschio saresti diventato un dittatore fascista. E lei dice: ah, invece che l'ennesima donna senza autostima. E poi arrivano delle risate finte da sitcom. Poi appunto riguardo al pezzo anticapitalista, Poem, lei l'ha commentato dicendo: that's just me post Trump, una reazione appunto all'elezione di Trump. Woman's Work, un pezzo molto lungo, noi l'abbiamo editato. Con altre interviste che ho letto di Noisy, dice: una delle cose particolari dell'essere donna è che quando il dibattito pubblico fa luce su una questione che riguarda le donne, ci si aspetta un tuo commento, come se l'ordine sociale fosse così benevolo da prendere in considerazione per una volta i pensieri e i sentimenti della donna. E ci abbiamo attaccato un altro degli intermezzi brevissimi. Ma tu oggi ovvio tu? You spy? No, I'm a singer. Come on, what are you singing? Traviata. Allora, non so cosa sia, ma lui era un venetone, non so, che ha detto: che lavoro fai? Sei una spia? E dice: no, canto. E dice: come on, cosa canti? Traviata? E infatti si chiama Traviata e dura 10 secondi. E siamo arrivati alla fine con il pezzo finale, anche questo una cavalcata cosmica di quasi 8 minuti. Questo qua è appunto un blues western. E siamo arrivati alla fine. Se non avete capito, In a Poem Unlimited US Girls Live, unica data in Italia, venerdì 11 maggio, Locomotive. Ma siccome anche questa è una cover, noi ci abbiamo messo prima la versione originale. È la versione di Micah Blue Small Dawn, pubblicata sempre nel 2013 come l'altra cover, Rage of Plastics, in un album che si chiamava The Ring of the Rise. E si può sentire appunto come il trattamento dei Cosmic Range di Megan Remy è prendere in mano appunto una cover e un pezzo e rifarla in modo frenetico. Questo pezzo si chiama Time. Giusto per capirsi. E continuiamo a leggere. Con questo disco Megan Remy ha voluto spingersi fuori dalla sua comfort zone, stare in studio con musicisti veri, perché lei non si considera tecnicamente una vera musicista e quindi era molto intimorita. E quindi però lei sottolinea e rivendica la sua responsabilità come proprietaria delle sue storie, ma appunto ci è voluta una comunità di musicisti per fare il disco e lei è felice di poter fare affidamento su questa comunità e di riconoscerne tutto il merito. E invece The Ringer parla di una cosa veramente molto curiosa, che invece del listening party per l'uscita del disco che voleva fare la 4AD, lei ha detto, Megan ha detto, io prendo un van, non so, 10 posti, 15 posti, mi metto proprio la cuffietta da guida con il microfono e vi faccio fare un giro guidando lei attraverso i luoghi dell'ingiustizia di New York, Wall Street, che era un mercato degli schiavi, St. Patrick, la cattedrale cattolica, che adesso appunto, diciamo, i proprietari hanno chiesto un prestito, hanno messo sotto ipoteca dei terreni vicino a St. Patrick per poter risarcire le vittime di abusi sessuali da parte dei preti. Poi quello che lei chiama il monumento allo sguardo maschile, cioè vero, dove è stata scattata la famosa foto di Marilyn Monroe sulla grata con il vestito bianco sollevato. Insomma, poi la giornalista dice che lei aveva fermato il pezzo proprio la partenza di Rosebud, proprio mentre per farla partire, proprio mentre passavano sotto la Trump Tower, dicendo che vorrebbe che le tasse americane, non sue perché lei è canadese, pagassero, fossero usate per far fare una bella terapia a Trump. E poi l'ultima tappa era la Triangle Shirtwaist Factory, dove nel 1911 in un incendio morirono 146 operai tessili, 123 donne e 23 uomini. Per quanto riguarda le recensioni, basti dire che la media di Metacritic, ovvero il Metascore, è 8,7 e che è il decimo album migliore per le critiche del 2018. Partendo appunto da voti più bassi, più basso di AY Mag 6, poi un paio di 7 e poi alla fine tantissimi 8, Pitchfork 8,6, ma poi anche diversi 9 e diversi 10. Tipo Pitchfork dice che è il raro disco pop politico che guarda al futuro e offre qualcosa di nuovo, e siamo all'8,6. Poi c'è The Line of Best Fit, sicuramente sarà nelle top list dell'anno. Exclaim, media canadese 9, riporta una frase di Megan Ramin che dice: sto analizzando molto di più la violenza perché è qualcosa che non mi appartiene ma che è ovunque. Ma lei bilancia l'oscurità con una gamma ricca e giocosa di trame synth, disco vibrante, ritmi funk che evocano Isaac Hayes, Donna Summer, Curtis Mayfield e il Bowie di Young Americans, Station to Station. Poi Tiny Mixtapes 9, No Ripcord 9, dice: ritmo e disperazione non sono estranei l'una all'altra, le cattive notizie suonano meglio se confezionate con musica che ti fa ballare o memorabili melodie, come ho accennato prima. E quindi ne poi Unlimited affianca l'euforia degli arrangiamenti pop dance con storie di ingiustizia, rabbia, risentimento, abuso, rassegnazione, sfinimento e abuso. Clash Music dice: questo album è l'apice finora della carriera degli US Girls, così ricco, organico e cinetico da rendere l'ascolto indimenticabile, difficile da categorizzare perché sono tanti generi. E un album del genere poteva essere concepito solo da un artista come Megan Remy, ovviamente supportato da dei musicisti eccezionali, quindi un esemplare musica pop politica eseguita praticamente alla perfezione. Poi non riusciamo a leggerle tutte. Q Magazine 10, The Skinny 10. Una riflessione sull'abuso che è universale, attuale, una gemma senza tempo, tanto potente quanto può essere una musica pop, dice, un disco senza tempo, senza genere e senza gender, ma i testi invece sono assolutamente gendered. E sfuma così questa cavalcata cosmica psichedelica di Time, pezzo conclusivo di In a Poem Unlimited. Mighty FM vi saluta, ci vediamo al Locomotive per questo bellissimo concerto. Ciao da Mighty Mau, ciao.